Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sono una figlia adottiva non riconosciuta alla nascita, comunemente chiamati figli di NN. È come un mondo sotterraneo di cui ancora in Italia non sappiamo bene le coordinate. La legge vieta alle madri che hanno dato in adozione di ricercare i propri figli. Quelle che hanno voglia di sapere perché non sanno niente, quelli che non hanno problemi con la famiglia adottiva. Siamo migliaia di figli non riconosciuti in Italia e all'estero. Siamo gli unici che non possiamo conoscere la nostra identità, perché la legge attuale sull'adozione permette molto, diciamo, giustamente e civilmente agli adottati 25enni che sono stati riconosciuti di accedere alle proprie origini, e con questo dimostrando che non c'è il problema rispetto alla famiglia adottiva. Quanto è importante risalire alle proprie origini per una persona che è stata adottata? Quando ormai adulto viene informato o sa casualmente, ma è più una situazione che appartiene a tempi passati, normalmente oggi un figlio adottivo sa di essere stato adottato, che i genitori con cui ha vissuto e condiviso la parte essenziale della sua vita non sono i suoi genitori naturali. E allora in qualcuno scatta il desiderio di capire, di vedere, di conoscere, di avere informazioni sui propri genitori naturali, anche se in tempi passati lo hanno lasciato, abbandonato e sono liberati di lui, soprattutto le madri single, le madri nubili. In Italia in media vengono adottati ogni anno all'incirca 5.000 bambini, 4.000 passa provengono da adozioni internazionali e 1.100 da adozioni concluse positivamente entro i confini nazionali. Leggo questi dati da un servizio molto accurato che ha fatto Corriere della Sera venerdì. A fronte di questi dati però comincia a porsi un problema. Molte di queste persone cominciano a sentire il desiderio di sapere chi sono i loro genitori d'origine. Voi direte il legame del sangue, io non credo molto ai legami di sangue, sono convinto che noi compiremo la parte essenziale della nostra evoluzione quando non legheremo più la nascita a un necessario legame di sangue con alcune persone, poi questa è la mia convinzione personale. Resta il fatto che molte di queste persone vogliono sapere chi sono i loro genitori naturali. In questo la Corte Europea dei Diritti Umani ha richiamato l'Italia, ha detto che in realtà il nostro diritto è troppo restrittivo. Giustamente o giustamente, secondo dei parametri che forse oggi andrebbero rivisti, oggi una madre che decide di affidare il proprio figlio è molto tutelata sul fatto che mai nessuno rivelerà questo figlio che lei è la madre naturale. Però questo va a scontrare col desiderio di molte persone di conoscere i propri genitori naturali. E quindi questa mattina cercheremo di trarre un punto di attualità rispetto a questo problema, rispetto al diritto e alla necessità, a una profonda motivazione che porta persone a voler capire chi sono i propri genitori naturali, e la tutela che ha dato un figlio in adozione che vorrebbe chiudere questa vicenda e farla rimanere soltanto chiusa nella sua esperienza personale individuale. 800 24 0024 è il numero per partecipare, sia che voi il problema lo sentiate come persona adottata, sia che voi abbiate un figlio in adozione. Loris Cohen Antonucci, buongiorno. Loris Cohen Antonucci è presidente dell'associazione Astronascente, che è l'associazione che si batte da 12 anni per il diritto al riconoscimento delle origini biologiche da parte delle persone adottate non riconosciute alla nascita. Condizione che, tanto lo diciamo all'inizio, condivide anche lei, Cohen Antonucci. Certamente, sì, sono figlio adottivo anche io alla ricerca delle mie origini biologiche e della famiglia adottiva. Ho cercato parecchie volte, però non ho ottenuto alcun risultato, perché appunto mia madre non consente di essere nominata, ha fatto questa dichiarazione alla nascita, e quindi io, come tantissimi figli adottivi in Italia e all'estero, parliamo più che altro per l'Italia, non possiamo riconoscere e trovare la nostra madre, la nostra famiglia, e viceversa, perché anche la madre non può cercare noi. Ecco, quindi c'è questo... diciamo una differenza di origine tra figli che non sono stati riconosciuti e figli riconosciuti. Spieghiamo qual è questa differenza. I figli riconosciuti sono sono tranquillamente appunto riconosciuti dalla madre e quindi secondo la legge attuale delle adozioni, con l'ultima revisione che è stata fatta nel 2001, possono tranquillamente, dopo l'età di 25 anni, fare richiesta per trovare i propri genitori. In quel caso cosa accade? Viene avvertito il genitore naturale, viene detto tuo figlio vuole conoscerti, sei d'accordo? Sì, certamente. Se lui non è d'accordo però non ci piove, è impossibile. È stato riconosciuto e comunque sia gli viene data una possibilità, cosa che non viene fatta col figlio non riconosciuto alla nascita, cioè in quel caso la legge dice fino a 100 anni questo segreto deve essere mantenuto e quindi non c'è possibilità nemmeno che la madre venga reinterpellata per togliere o eventualmente riconfermare. Perché come funziona, Loris? Esiste un database segreto inaccessibile in cui comunque anche una donna che non riconosce il figlio, da qualche parte è scritto che la donna ha fatto un figlio. Se la donna ha partorito regolarmente, diciamo, in ospedale, che è nota, diciamo, come persona, il suo nome ci sta, viene solo occultato alle persone come il figlio o tutti quelli che non ne hanno diritto a conoscerlo. E se però il bambino, per esempio, fosse stato abbandonato per strada o purtroppo chissà dove, beh, lì non c'è niente da fare. In quel caso, ecco, non si sa ovviamente chi è la madre. Qui rientriamo nel romanzo d'appendice, è impossibile rintracciare, sì, è difficile. Quasi impossibile. Ecco, diciamo. Mi spiega una cosa che mi interessa molto, proprio da un punto di vista personale umano, se le va di parlarne. Certo. Cos'è il richiamo del sangue? Qual è il richiamo di avere biologicamente un contatto con la persona che ci ha costruito e generato? Come si avverte? Ecco, come diceva all'inizio, io credo fino a un certo punto a questo legame di sangue, nel senso che sì, forse ci può anche essere, però del resto noi andiamo a cercare una persona, almeno parlo per le persone che sono state abbandonate da piccole alla nascita come me, io sono stato adottato che avevo 3 mesi, quindi ero proprio piccolino, abbandonato subito e personalmente non è che sento questo legame di sangue, cerco le mie origini per più che altro una curiosità, per il diritto di sapere la mia storia. Per completare, diciamo, per completare la storia della sua vita. La mia vita, ecco, non ne faccio un'ossessione di vita, ne faccio così un'esigenza che può essere soddisfatta o meno, quindi se verrà soddisfatta la ritengo un beneficio, ma non un obbligo. Ecco. 800 24 00 24, cominciamo ad articolare il dibattito. Questo è un punto di vista, è una posizione, certo, è la posizione, certo, dei figli adottati che a un certo punto della loro vita dice io devo completare la storia della mia vita, non credo che ci sia il desiderio di ritorsioni o di chiedere spiegazioni, ma semplicemente vedere, capire, incrociare gli occhi della persona che comunque sia biologicamente ci ha generato. Questo va a scontrare però con un'altra esigenza. Frida Tonizzo, buongiorno. Buongiorno. Frida Tonizzo è consigliera dell'ANFA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatari. Mi sembra di capire il vostro punto di vista che la madre naturale che decide comunque di dare il figlio in affidamento deve avere tutte le garanzie di anonimato se vuole rimanere anonima, se no ciò innescherebbe un meccanismo distruttivo di abbandoni, infanticidi, aborti non previsti o qualcosa del genere? Allora, innanzitutto vorrei precisare che la sentenza da cui si è partiti riguarda una persona che non è stata riconosciuta alla nascita e non è stata adottata, quindi il dibattito sull'adozione è marginale. Io però vorrei... Sì, era il senso, no, lo spiego perché io non l'ho nemmeno citata quella sentenza. È sul Corriere della Sera, parte da una signora molto anche di, quello in questi sì, giorni, di 63 anni che si è rivolta a Strasburgo per conoscere l'identità della madre e per avere informazioni. Io vorrei richiamare l'attenzione anche degli ascoltatori su una norma che noi riteniamo di altissima civiltà, che consente a una donna anche non coniugata, anche coniugata, di non riconoscere il proprio nato, che viene partorito, che può essere partorito in ospedale e registrato come figlio di donna che non intende essere nominata. Perché riteniamo che sia una norma di alta civiltà? Si dice ancora figlio di NN, no? No, grazie al cielo non si dice più figlio di NN, anche se la dizione figlio di donna che non vuole essere riconosciuto non è anche questo molto gradevole per... Quale sarebbe il suo suggerimento per una definizione civile di questa situazione? Vabbè, ormai si sta parlando di figli, tout court, per cui il problema però è un altro. Il diritto alla segretezza del parto consente alla partoriente di partorire in sicurezza, seguita in ospedale, e consente a lei, che ha deciso per motivi anche gravi e su cui, se possiamo anche soffermarci, di non diventare la mamma del proprio bambino, ma ha anche deciso di non abbandonarlo, perché nel momento in cui non lo riconosce al momento del parto, il bambino viene consegnato alle istituzioni che, visto che abbiamo 15-20 domande per ogni bambino adottabile, provvede subito all'inserimento di questo neonato nella famiglia adottiva, evitandogli trascuratezze e maltrattamenti che a volte riscontriamo in bambini dichiarati adottati. Mi sembra di capire, Frida Tonizzo, che non debba sentirsi questa donna come una reietta con un dito puntato. Lei non vuole, rinuncia alla maternità, però ha coscienza di affidare il frutto, diciamo, della sua maternità a una situazione che gli salvaguardi un futuro, non lo butta dentro il cassonetto, ecco. Questa norma di salvaguardia rispetta sia la salute della la partoriente, i diritti della partoriente, sì, che una sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito essere prioritario, il diritto alla segretezza del parto rispetto a quello che può essere l'interesse o il desiderio di un figlio anche adottato che non è stato riconosciuto alla nascita. Quindi questa norma va salvaguardata perché consente a 400-500 neonati ogni anno di nascere, di vivere e di essere subito adottati. E questo l'alternativa è l'infanticidio o l'abbandono, e le cronache ci dicono che questo ancora adesso succede. E questo mi sembra diciamo, un punto di vista accettabile. Prima il diritto della madre di poter disporre comunque del proprio figlio senza doversi sentire per forza schiacciata dal giudizio della società, e poi eventualmente il diritto del figlio di risalire alle proprie origini. Però il mondo è un po' cambiato ultimamente. Loris Cohen Antonucci. È chiaro, esiste questo suggello, esiste questa segretezza, i 100 anni. Però oggi siamo nel mondo dei social network, la gente si interconnette. Sì. Quanti di voi vanno a cercare in Facebook i propri genitori? Sono veramente tanti, ci sono tanti gruppi presenti, compreso il gruppo della nostra associazione, e sono veramente tanti, poi chi per un'esigenza, chi per l'altra, però... Come funziona l'uso del social network alla ricerca delle proprie origini? Come accade? Cosa si scrive? Come si pensa di poter rintracciare i genitori? Beh, lì si parte mettendo, diciamo, una sorta di appello, di annuncio, con i dati che si hanno a disposizione, che non sempre tutti hanno dati esaustivi. C'è chi sa solo il giorno della nascita, a volte anche incerto, chi ha anche il luogo, l'ospedale, chi non sa nemmeno dove è nato. Insomma, ci sono persone che sanno veramente poco della propria nascita. E ci sono casi risolti, cioè di persone che hanno trovato... Sì. Cioè tramite Facebook in Italia sono stati trovati genitori. Anche tramite Facebook, perché poi ricordo che secondo la legge italiana neanche la madre può andare in cerca, per cui un figlio adottivo non può neanche sapere se la madre ha mai avuto questo desiderio di cercarla, perché magari ha proprio le mani legate e poi magari... Quindi diciamo che il social networking, che in Italia è una delle pratiche più condivise, più felicemente usate per un'infinità di ragioni, scopriamo questa mattina che diventa una maniera per... Non voglio dire bypassare le leggi, ma perseguire un filo più diretto che metta insieme l'esigenza di una madre, al di là della legge, di saper qualcosa di un figlio che ha dato in adozione, e di un figlio che riconosce la propria madre. Quindi questi fili attraverso la rete si ricongiungono. Esattamente, ovviamente con tutti i rischi che può comportare la rete, perché purtroppo tutto è lasciato così. Certo, l'ambiguità, le false attese. Esatto. C'è anche chi ci specula sopra, purtroppo chiedendo anche molti soldi. Fermiamoci un attimo. Sì. Fabio, buongiorno. Buongiorno, io sono un genitore adottivo, chiamo da Modena, ho due bellissimi gemelli colombiani che sono diventati miei figli, e io con mia moglie, quando siamo recati in Colombia, abbiamo avuto tutta la storia dei nostri figli, quindi sappiamo chi era la mamma e chi l'ha partoriti, in poche parole, sappiamo il perché c'è stato l'abbandono, i nostri bimbi purtroppo erano stati messi in vendita, diciamo, e poi sono stati intercettati gli assistenti sociali, quindi sono arrivati all'adozione internazionale. Io volevo dire che noi siamo come famiglia predisposti e faremo questo anche ad accompagnare i nostri figli in Colombia, visto che hanno 3 fratelli che sono rimasti in Colombia, qualora ce lo chiedessero. Penso che, come ha detto prima il vostro... E i genitori sarebbero disponibili a rincontrarli o anche lì esiste una sorta di blocco legislativo? Il blocco legislativo c'è, però naturalmente, come voi dite, su Facebook, anche in Colombia c'è, e c'è dappertutto, in tutto il mondo, i social network, sappiamo dove sono nati, la città, sappiamo nome e cognome, abbiamo un po' tutti, tra virgolette, questo... Diciamo, quanti anni hanno i vostri figli? Quanti anni hanno? Adesso hanno 3 anni, quando hanno stati venduti tra virgolette a 2 anni e noi li abbiamo adottati. Siamo, diciamo, fra altri 3-4 anni o 5 anni saranno in grado da soli di andarsi a cercare in rete, vista l'evoluzione dell'alfabetizzazione dell'uso di questi mezzi. Ma guardi, se lei chiede ai miei figli dove sono nati, le dicono in Colombia e sanno che sono venuti con la mamma e il papà e sono venuti in aereo. Io volevo dire che quello che ha detto prima giustamente il vostro esperto in materia è una cosa giustissima, non è un legame di sangue, la ricerca del legame di sangue, quello che penso che sia... andare a colmare un lato oscuro della propria vita. Noi abbiamo diritto di avere la storia della nostra vita. Io penso che sono convinto che verrà un momento felice in cui avremo il database della nostra esistenza, potremmo scorrerlo, lasciarne pezzi ai nostri figli, occultare tutto e buttare via tutto. E questo naturalmente è un diritto fondamentale. Amalia, buongiorno. Buongiorno. Io sono stata adottata e ho 42 anni, ora ho due bambini. Niente, mi è rimasto così desiderio di voler conoscere i miei genitori naturali. Ha mai fatto nulla per farlo? Allora, io personalmente, non che se ho sempre pensato, ora i miei genitori adottivi non ci sono, e stranamente mia mamma sempre me ne ha parlato dicendomi: se tu vuoi, un giorno potremmo andare a cercare, però so che in India allora non c'erano gli uffici anagrafici, registri. Beh, 40 niente. Anni fa esistevano in Italia. No, in Italia sì, in India no. Ah, lei dall'India viene? Ah, io sì. Ah, sì, no, sì. Non me l'ha detto, non avevo capito, forse l'avevo capito. No, dall'India, e quindi le ricerche credo che sono quasi impossibili. Fra l'altro, dicevano che io sono stata tipo abbandonata. Beh, l'India è grande, diciamo, ecco. Sì, sì, sì, quindi le ricerche, il desiderio ovvio che c'è. E nemmeno la città sa da dove è stata, diciamo, adottata. No, ufficialmente, io dico ufficialmente per quello che risulta dalle carte, Agra, però so che sono stata portata ad Agra da Bombay. È come cercare un ago nel pagliaio, trovare, sì, una madre a Bombay. Penso di sì, anche perché io non so se allora le suore tenevano questi registri, perché credo lo stato civile completamente. Però le suore, se hanno o tenevano, tuttora tengono... Ma lei ha mai cercato queste suore? No, è perché con gli anziani che conoscevo sono morti. Perché giustamente io ero bambina e io mi ricordo queste suore tipo sessantenni, o che portavano malissimo l'età o dimostravano tantissimo. Comunque Beh, le suore hanno i baffi molto precocemente, sai, per questo... Quindi non vorrei io, ovvio, approfondire questa cosa proprio perché... Ecco, ma lei che desiderio sente dentro di sé? Potesse iniziare una ricerca, le piacerebbe di capire, di vedere la famiglia di origine, sì, dove è nata, sì, il posto? Sì, anche perché oggi ho una consapevolezza acquisita ovviamente grazie all'Italia, ai genitori, e abbracciarli e condividere loro quello che ho oggi io, perché io sono stata abbandonata e poi ho avuto questa fortuna, e perché loro non hanno avuto questa fortuna. E le auguro, Amalia, di ritrovare le sue origini sulle rive del Gange, che devo dire, lo sapevo, me l'aspettavo, incombeva su di me come una mannaia, speravo di non leggerlo, ma in realtà devo leggerlo. Nicoletti, una mamma che non vuole il suo bambino a coscienza farà una scelta meno penalizzante per il piccolo, ma da qui a chiamarla coscienza ce ne vuole. Per favore, non giudicate nessuno, non vi prendete la briga di giudicare gli altri, non usate il vostro metro per ponderare le vite altrui. Una madre che abbandona un bambino già avrà dei suoi problemi incommensurabili. La coscienza non esiste, la coscienza è un'altra cosa, collocatela in altre dimensioni, soprattutto misurate la vostra coscienza nel vostro quotidiano, non giudicate gli altri. Questa mattina stiamo parlando di adozioni, ma stiamo parlando da un punto di vista particolare, poco frequentato di solito, il desiderio da parte di persone adottate di risalire e ricostruire la propria vita mettendo anche il tassello mancante, la propria famiglia d'origine. Questo naturalmente va a cozzare con il desiderio di alcune donne che per il signore o la signora che mi ha scritto non hanno coscienza, ma che hanno il fermo desiderio comunque di partorire il loro figlio, di non abbandonarlo, di non buttarlo via, di non massacrarlo in nessuna maniera e di affidarlo a quella che una volta si chiamava la provvidenza, che oggi più concretamente chiamiamo a una famiglia che se ne occupi, che gli dia l'amore che non se la sente in coscienza appunto di dare la persona che l'ha partorito. 800240024. Un'altra cosa che abbiamo capito è che in realtà, al di là delle leggi, dei regolamenti che possono cambiare con l'evoluzione della società, oggi esiste il social network, soprattutto in Italia, che è un'attività molto appassionatamente praticata dagli italiani. Si stanno ricreando delle reti, esistono su Facebook varie aree in cui i figli si mettono, lanciano dei messaggi in bottiglia e le persone che in fasi precedenti della loro vita hanno dato dei figli in adozione, lanciano anche loro il loro messaggio e molte volte questi messaggi si rincontrano. Giacomo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo fare innanzitutto una considerazione per quanto riguarda il richiamo di sangue. Io sono d'accordo sul parere del vostro ospite, che poi tra l'altro lui ci è passato, quindi sa cosa significa. Ecco, il richiamo di sangue non è proprio sempre così, nel senso un bambino impara ad amare quando frequenta. Secondo me è una figura poetica, retorica, letteraria, romanzesca, il richiamo di sangue. Esattamente. Il sangue non richiama niente a nessuno, guai a pensare che il sangue porti in sé dei valori. Esattamente, a meno che in certe situazioni si può percepire una sensazione diversa tra una persona e l'altra. Ma l'altra considerazione che invece voglio fare è quella fino a che punto, diciamo, la legge riesce a legiferare in merito ai bambini che vengono abbandonati, che io sono d'accordo piuttosto di abbandonarli in strada, è meglio che ci sia una struttura dove vengono lasciati, perché sicuramente dietro una madre che fa un atto del genere c'è sicuramente un disagio interiore, esteriore, comunque sia un forte disagio. Sì, ma questo è fondamentale da quando ci siamo articolati nella direzione della civilizzazione. Qualcuno è sempre occupato di raccogliere i bambini delle madri nubili e di comunque in varie maniere, secondo anche altre scellerate formule, comunque di riaffidarli bene o male alla società. Quindi questo mi sembra basilare. Massimiliano. Buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa, non vi seguo da qualche minuto perché sono uscito dalla macchina. Vi ringrazio innanzitutto di trattare un argomento così delicato in maniera, mi sembra, opportuna, diciamo sensibile. L'articolo del Corriere della Sera trattava, volevo solo dire due cose. Io sono un genitore adottivo di due bambini, uno non riconosciuto e l'altro invece che di adozione estera. Mi dovrò confrontare con la diversità di informazioni che si hanno, perché il bambino non riconosciuto alla nascita è il mio primo figlio, il mio più grande, quando vorrà, come l'altro successivamente, sapere qualcosa, si scontrerà contro una assenza di informazioni. Questa cosa però, secondo noi, via, secondo i nostri pensieri, è una delle, come si può dire, delle casistiche, delle possibilità. Egli ha avuto la possibilità, come diceva uno degli interventi che ho potuto sentire, di nascere grazie a questa legge, secondo almeno le nostre convinzioni e quelle dei certo. gruppi che frequentiamo e che animiamo, perché tra l'altro, per brevità non ho detto, appunto animiamo dei gruppi di autoaiuto, di famiglie, contribuiamo ad animarlo con altre persone. Mentre invece l'altro, mio figlio, il figlio più piccolo, è arrivato con noi però un anno dopo e già siamo molto fortunati perché entrambi sono arrivati molto piccoli, scambiando, diciamo, in senso lato. Quindi lei dice i due fratelli ritardo con certo. l'informazione che avrà. I due fratelli avranno due destini differenti dal punto di vista di poter avere o meno notizie delle loro famiglie d'origine. Bravissimo. E questo non vorrei banalizzare ovviamente adesso, anzi mi scuso di nuovo, ma non è entrato così improvvisamente da un ufficio pubblico, forse sono no ma ha dato un contributo precedenti, ma il concetto un contributo è, perfetto alla trasmissione, secondo me, almeno quello che questo sta tra virgolette nella casualità delle cose della vita, diciamo. Una persona ha scambiato un anno di vita con i suoi genitori, cioè noi, con, ovviamente non scegliendolo, ma vivendolo, con la permanenza in una struttura che l'ha registrato, ne ha registrato i dati della madre, eccetera, eccetera. Pur con difficoltà potrà cercare di risalire il filo rosso che lo lega da, diciamo, dalla biologicità. Sì, ma non è mica sempre detto che nella vita tutto abbia una soluzione o tutto sia possibile risolverlo in maniera felice. Rimangono dei punti aperti. Loris Cohen Antonucci, ricordo che è presidente dell'associazione Astronascente, che è l'associazione che si batte appunto per il diritto da parte delle persone adottate di risalire le proprie origini biologiche. È anche la sua situazione personale individuale, ci aveva appena detto che in realtà si supplisce laddove la legge non lo permette, attraverso la rete, i social network, i gruppi che mettono in condivisione quelle che sono le informazioni personali sulla possibilità e sulla richiesta di riconoscere i loro genitori. Ma voi cosa chiedereste da un punto di vista proprio preciso, legislativo? Quale sarebbe la legge che a voi farebbe contenti? Allora, noi abbiamo presentato una proposta di legge nel novembre del 2008 che appunto richiede la modifica di quell'articolo che permette appunto di cercare o non cercare appunto le origini biologiche. Noi chiediamo semplicemente che venga offerta almeno una possibilità alla madre biologica di essere reinterpellata a distanza di anni e decidere se confermare questo anonimato ancora una volta o se scioglierlo, e quindi dare il diritto al figlio di incontrarla con le dovute mediazioni, le dovute precauzioni, ovviamente, che andranno poi smussate. Questa è chiaro, questa è la vostra proposta. Sì. Frida Tonizzo, ricordo, consigliera dell'ANFA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie. Questa richiesta da parte delle persone adottate però cozza un po' con il desiderio, mi sembra, non sovrascrivibile, della madre che decide voglio scomparire. Ma anzitutto io vorrei dire che dobbiamo rispettare tutti molto di più questa decisione, su cui non possiamo esprimere giudizi proprio perché non sappiamo da che cosa è motivata, però quello che ho detto, quello io, che è fondamentale è che questa decisione possa essere presa a seguito di una possibilità di scelta che adesso non c'è. Perché molte donne adesso, solo perché sono extracomunitarie ad esempio, non hanno la possibilità di essere assistite e accompagnate, quindi il non riconoscimento può essere perché anche questo? Una scelta me lo forzata. Spiega, nel loro paese d'origine dice questo? No, parlo di quelle presenti in Italia. Come mai c'è questa discriminazione? Ecco, perché noi abbiamo una legislazione che non prevede l'accesso ai servizi di aiuto per le gestanti in difficoltà che non hanno un permesso di soggiorno, le clandestine, che non hanno una, diciamo, residenza, eccetera. Le persone clandestine. Quindi noi, quello che, per cui ci stiamo battendo adesso, e chiederemo anche l'aiuto di tutte queste, di tutte le organizzazioni che credono nella necessità che il non riconoscimento o il riconoscimento siano scelte responsabili. Se oggi voglio riconoscere un bambino, devo avere la possibilità di accedere a degli aiuti, anche se sono extracomunitari, e questo non è possibile. Proprio per questo noi stiamo seguendo con molto interesse una proposta di legge che si sta discutendo alla Commissione Affari Sociali della Camera, in cui si prevede che una gestante che non sa ancora se riconoscere o meno il proprio bambino possa essere assistita, seguita, accolta o in comunità o con, supportata con aiuti economici per poter maturare liberamente questa scelta. Noi dobbiamo preoccuparci in questo momento. Voi avete qualche dato sugli infanticidi? Lo so che il tema è abbastanza... Non esistono dati sugli infanticidi, però i dati sui bambini che non sono stati riconosciuti alla nascita, esistono dei dati. Abbiamo appena concluso una ricerca sulle richieste di accesso all'identità, e allora devo dire che le richieste di accesso all'identità, quelle che da una ricerca che noi abbiamo fatto nel 2008 e nel 2009, non superano i 100 rispetto ai figli non riconosciuti. Quindi la vostra posizione mi sembra chiara, voi siete per ribadire ancora di più un diritto all'anonimato, alla scomparsa, estendendo questo diritto anche alle persone che non hanno una cittadinanza, un riconoscimento in Italia. Le clandestine, che poi probabilmente sono le persone che maggiormente hanno il peso e l'onere di poi dover essere garantite da questo punto di vista, e quindi da questo, questo è il vostro punto di vista, mi sembra difficilmente conciliabile con quello espresso dall'Associazione Astronascente. Loris Cohen Antonucci, ma ci viene da pensare, un secondo rifiuto da parte della madre naturale non è un dolore e una frustrazione ancora più pesante da parte del figlio adottato, ammesso che passasse comunque la vostra proposta di legge? Sì, è comunque un dolore, ma un dolore che noi figli adottivi mettiamo in conto, perché comunque chi si mette alla ricerca è una persona ampiamente maggiorenne e vaccinata, per cui mette in conto questa opportunità. E penso che non sia, come dire, un motivo valido per non accettare una simile proposta di legge, nel senso che ognuno si assume le responsabilità di quello che fa. Se ha paura di un secondo rifiuto, evita proprio magari di mettersi alla ricerca. Tutto qui. Quello che secondo me è democrazia è offrire l'opportunità di farlo, poi ognuno decide se farlo o meno. Così invece con la legge attuale non c'è proprio questa opportunità, perché lo Stato, diciamo, decide per noi, la madre dice non voglio essere nominata, e quell'anonimato vale per sempre, quindi è un po' a senso unico questa decisione. Lei dice c'è una doppia salvaguardia, da parte quella della madre di rimanere anonima, d'altra parte che non tiene conto comunque del diritto di un essere umano di saperlo. È un po' in questo caso la legge al momento tutela più la madre, perché sì, come ha detto sì. Frida Tonizio, in realtà è fondamentale questa tutela, molte volte salva la vita a molti bambini, a molti ragazzi sarebbero buttati via, oppure farebbero scelte molto più drastiche. Molte persone hanno la chance di poter avere una vita proprio perché la madre ha una chance di rimanere anonima. Valerio, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Io volevo dare il mio contributo, sono un figlio adottivo e le dico con la massima sincerità che io non ho alcun bisogno di conoscere la mia storia, i miei genitori biologici, e non sento assolutamente questo richiamo del sangue. Ho avuto due genitori meravigliosi, mio padre è ancora vivo, ho una famiglia che comprende anche zii, cugini, nonni, eccetera, eccetera, non mi sono mai sentito diverso. Io ho saputo così per caso di questa mia adozione. A lei non ha cambiato nulla fondamentalmente? Onestamente non sento alcuna necessità di andare a vedere perché, per come io sarei stato abbandonato. E guarda che questa necessità capita anche a persone che sono sempre vissute con i loro genitori senza adozioni, che a un certo punto non sentano più la necessità di vederli. Quindi io sono perfettamente convinto che il legame di sangue è una sovrastruttura che ci viene messa addosso perché dobbiamo sentirci in colpa a un certo punto della nostra vita, se non ce ne porta più un piffero di vedere i genitori, probabilmente. Addirittura io penso anche che sia un valore aggiunto, nel senso, ecco, mia madre mi ha amato anche se non, anche non essendo io il frutto delle sue viscere, insomma, come si dice. Sì, ma è un termine antico, lei pensi quanto sì. Ancora tante madri fanno danni nei figli rinfacciando a te che mi hai lacerato le viscere per partorirti, non hai... Io penso che avremo veramente un passo fondamentale della nostra evoluzione quando non esisterà più questo ricatto viscerale fra madri e figli. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Buongiorno, senta, volevo dire due cose, molte cose giuste durante la trasmissione. Volevo dire che ben venga quelle madri che lasciano i propri figli per la felicità del figlio, li danno in adozione, ma questa è una parte minima, sarà il 20%, soprattutto nelle adozioni internazionali. Io sono padre di quattro figli, di quattro fratellini adottati, e nelle adozioni internazionali sono tutte situazioni molto delicate, molto tristi e difficili. Nel certo, caso, cambia molto il quadro, questo me ne rendo conto. Cambia molto, nelle adozioni nazionali questo è. C'è una iperproduzione di bambini che alla fine altrimenti finirebbero veramente in maniera molto drammatica. Detto questo, però fa parte del compito di un genitore adottivo. Io per esempio ho i certificati di nascita dei miei figli, ne parlo quando siamo a pranzo in condizioni particolari su domande che il bambino nella sua crescita fa al proprio genitore adottivo. Fa parte del completamento, della crescita, della figura di un uomo, di una donna consapevole che arrivato a 18 anni può tranquillamente dare la libertà di ricerca dei propri genitori naturali. mentali. Ecco questo, senza enfatizzare troppo quando sono piccoli, perché fa parte del nostro compito di genitori adottivi la crescita e il riequilibrio emotivo, detto cognitivo, ma soprattutto emotivo del bambino, e portarlo a 18 anni ad essere un uomo o una donna che è libero di poter. Soltanto il fatto, ritengo, di dargli questa libertà poi ha una corretta crescita e una corretta decisione che il figlio gerarchico. È interessante quello che dice Frida Tonizzo, consigliera dell'ANFA, Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie. In realtà il rapporto fra adozioni internazionali e adozioni entro i nostri confini nazionali è 4 volte superiore, 4.000 adozioni internazionali rispetto a 1.000 adozioni nazionali. Non è che col passare del tempo il problema si esaurirà da solo, non esisteranno più madri nubili o sempre meno che avranno necessità o desiderio di questo suggello, e sposteremo più il problema su altri paesi lontani molto diversi dai nostri. Vorrei rispondere su questo e su un altro punto. Anzitutto, anche in Italia ci sono dei bambini che continuano ad essere dichiarati adottabili, e probabilmente potrebbero anche essercene di più se venissero effettuati maggiori verifiche e controlli sulle situazioni ancora disperanti di tanti che subiscono abusi e maltrattamenti e magari non vengono tempestivamente individuati. Quindi purtroppo credo che, seppur in diminuzione, il numero dei bambini adottabili anche in Italia continuerà ad essere, e devono essere dichiarati adottabili se viene accertato il loro stato di adottabilità. E lei come la pensa riguardo alle coppie non sposate? Vorrei aggiungere una seconda cosa che è ritornata in molte telefonate. Molti delle persone che ricercano l'identità dei genitori biologici non sono stati informati della loro adozione quando erano bambini, come invece correttamente richiamava l'ascoltatore di prima, e hanno saputo tardi e male di essere adottati. Questo è una cosa inaccettabile. È una procedura un po' arcaica, però. Però guardi, ancora adesso a me succede di sentire questo, e credo che invece sia fondamentale che avere la consapevolezza come genitori e come figli che attraverso l'adozione si diventa genitori e figli, e non è che questa genitorialità e questa filiazione, sottolineo anche il discorso filiazione perché anche all'interno della, cioè, è un costume antico questo dei figli adulti che si battono magari portando avanti di posizioni diverse da quelle di loro. Però mi risponde anche sulle coppie non sposate, perché è un tema grosso. Ci sono molte coppie non sposate, anche coppie gay, che vorrebbero avere un figlio in adozione. Qual è il vostro punto di vista a questo punto? Noi riteniamo che al momento, avendo 15-20 domande per ogni minore dichiarato adottabile, sia in Italia che all'estero, ce ne sono in crescita. No, l'emergenza sa qual è e viene spesse volte ignorata, è che i bambini adottabili anche dall'estero sono bambini sempre più grandi, la media dei minori stranieri adottati supera i 6 anni, sono bambini che hanno alle spalle delle esperienze terribili che noi non ci possiamo neanche immaginare, e troppo spesso i genitori che li adottano sono poi abbandonati e soli di fronte alle difficoltà di crescita di questi bambini. Quindi diventa un problema di difficile gestione. Sostenere le adozioni difficili in particolare, non è quello di allargare il parterre degli aspiranti genitori adottivi quando i minori dichiarati adottabili in Italia sono quelli che sono, e anche quelli per adottare quelli all'estero i tempi di attesa sono lunghissimi, proprio perché l'Italia non è la sola a chiederli e hanno le caratteristiche che dicevo prima. Io credo che sia importante che i figli adottivi, lo ripeto, quelli che adesso si battono per questo accesso su cui noi abbiamo le riserve che dicevo, pensino anche che se loro sono qui adesso e vivono, è anche grazie a una legge sul diritto alla segretezza. E questo è, caro Frida Tonizzo, chiudiamo e concludiamo su una riflessione: che esiste una parte precipua del mondo dove i figli sono in sovraccarico e in eccesso, e una parte del mondo che vorrebbe prendersi. Grazie Fabrizio Intonti, grazie a Alessandro, non mi ricordo adesso, un momento. Chiappini, ecco qua, figurate, un momento di lapsus, pensavo altre cose. Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, grazie, a domani.